Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora, oggi comincia la fase 2. Sui quotidiani ci sono paginate di interpretazioni che spiegano come comportarsi per essere in regola. La cosa che abbiamo capito tutti è che un po' di persone tornano a lavorare e un altro po' di persone, probabilmente quelle che non lavorano ma che non abitano insieme, possono tornare a fare l'amore. Quindi non è vero, come diceva quella canzone, che chi non lavora non fa l'amore. In questo caso chi non lavora fa l'amore con gli affetti stabili, ammesso che durante la quarantena gli affetti stabili abbiano retto. Poi abbiamo capito che uno dei nodi più divisivi di tutto questo periodo è stato sciolto: i runner, che potranno tornare a runnerare. Abbiamo letto e consumato pagine di quotidiani sulla questione dei runner, additati come se fossero i responsabili principali di tutta la questione, non pipistrelli o pangolini o laboratori cinesi dai quali sarebbe scappato il virus. Sembrava che i veri responsabili della pandemia fossero i runner, che più di una volta sono stati duramente apostrofati dalle finestre di chi stava a casa. Anche perché in fondo prendersela con un runner è più facile che prendersela con un pangolino, che è già un nome che fa simpatia, andrebbe bene anche come vezzeggiativo sentimentale. Vieni qui, pangolino mio. Però mi sembra innegabile che dopo un primo periodo in cui tutti si stavano un po' più tranquilli è tornata la grande protagonista dei nostri tempi, cioè la rabbia. La paura per qualche settimana aveva sconfitto la rabbia, che se ne stava lì rintanata in un angolino, quasi non si notava più. Poi man mano che il virus perdeva un po' del suo potere terroristico, la rabbia usciva dall'angolo e ricominciava a tornare protagonista, soprattutto sul web, in un'atmosfera da far west, anzi da far web. E allora è inevitabile vedere l'odio che si scatena tra fazioni, soprattutto sul web, appunto. Sarà che il campionato di calcio è fermo, il tifo si è riversato su Conte da una parte e su Salvini Meloni dall'altra. Gli sceriffi del web, quelli che giudicano i comportamenti altrui dall'alto di non so quale legittimazione, sono diventati ultras della squadra di Conte, che è sicuramente la più forte, anche perché può contare su non so quante task force, su Colau, che l'ho già detto, sembra più un cognome da calciatore brasiliano che da manager. Così gli ultras delle squadre di Salvini e Meloni, quelli che prima avevano più voce sul web, si trovano un po' in difficoltà, annaspano, rischiano di uscire dalla zona Champions, hanno trovato pane per i loro denti, anche perché Salvini con gli occhiali sembra meno combattivo, sembra quasi un radical chic. Tutti contro tutti, riaperturisti totali contro lockdownisti, supportati nell'incertezza da decine di virologi che in questi mesi hanno detto tutto e il contrario di tutto. Ma noi italiani siamo così, ci piace dividerci, ci dividiamo anche su come si portano le mascherine. C'è chi le tiene nel modo tradizionale, chi sotto il naso, chi sul collo, chi sulla fronte, come una bandana. Forse per questo che il virus un po' arretra, ci guarda, non ci capisce niente neanche lui e forse pensa di andarsene altrove. Forse tornerà dal pangolino, che probabilmente può essere riconosciuto come un suo affetto stabile. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora, ieri, saputo da te proprio che erano aperti i bar per servire i caffè a sporto, ho voluto verificare se anche per me c'era questa possibilità. Molti bar erano chiusi, uno però era aperto, dove abito io, con un tavolino davanti all'ingresso per impedire l'accesso alle persone. Bene, ho pensato, e mi sono avvicinato trepidante come al primo appuntamento adolescenziale, solo che ad attendermi non c'era l'anima gemella, ma più modestamente un caffè, che però ha molte cose in comune con l'anima gemella: può causare gastrite e si consuma rapidamente, come di solito succede per l'amore. Dunque, davanti al tavolino che impediva l'accesso al bar c'era un signore di una certa età che parlava con la proprietaria del bar stesso. Il tono della voce dell'uomo era piuttosto alto, sudava parecchio quel signore e probabilmente emetteva goccioline che andavano molto oltre il 1,80 m. Si toccava continuamente tutte o quasi tutte le parti del corpo, risparmiando solo le scarpe. Tra l'altro scuoteva spesso la testa e il sudore depositato sui capelli andava a destra e a sinistra, producendo l'effetto di un cane bagnato quando si scuote per asciugarsi. Insomma, se fosse stato eventualmente positivo al tampone, sarebbe stato in grado di contagiare le persone presenti in tutto il quartiere e anche in un paio attigui. ma comunque portava la mascherina che però spesso si avventurava fin sotto al naso. Da lontano, per non avvicinarmi troppo, ho chiesto se fosse possibile avere un caffè a sporto. Sì, mi è stato risposto gentilmente dalla signora, anche con una certa felicità, visto che probabilmente i miei erano tra i primi euro che stava per incassare dopo molto tempo. Quindi mi sono avvicinato, immaginando che l'attempato signore si spostasse. Invece no. Come se niente fosse, il tizio, nonostante non stesse aspettando nulla, continuava a parlare beatamente con la signora ed emettendo inevitabili goccioline che sentivo idealmente depositarsi sulle mie delicate mucose. Mi sono avvicinato in modo abbastanza deciso, pensando che il soggetto capisse e si spostasse. Lo ha fatto. Ha fatto un passo indietro, ma solo per un attimo. Proprio mentre mi stavo avvicinando per ricevere l'agognato caffè, lui non ce l'ha fatta. Spinto da un istinto irrefrenabile, si è di nuovo riavvicinato al tavolino per continuare a parlare con la titolare del bar. Avevo più vicino lui di quanto non mi fosse capitato in passato con alcune fidanzate. E io ero lì, sotto il fuoco non amico delle sue goccioline che probabilmente fuoriuscivano dalla sua mascherina ondivaga. Avrei dovuto dirgli in modo chiaro di spostarsi, avrei dovuto dirgli che non portava la mascherina nel modo giusto, avrei dovuto dirgli che non era il modo corretto di comportarsi, avrei dovuto. Il mio problema è che penso sempre che gli altri si comportino in modo corretto, come di solito cerco di fare anch'io quando ci sono altri che sono parte in causa, ma invece mi rendo conto che ci sono alcune persone per le quali non è così, c'è sempre un margine di tolleranza per se stessi. In queste persone sono pronti a rimproverare gli altri e sempre invece ad assolvere se stessi. Comunque ho ricevuto il mio caffè ed ero così emozionato che non l'ho neanche voluto bere. L'ho portato a casa, l'ho appoggiato sul tavolo come una scultura e ogni tanto lo guardo come simbolo e testimonianza dell'inizio della fase 2, sperando che almeno sul bicchierino di cartone non si sia depositato il droplet del mio inevitabile concittadino gocciolante. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora, c'è un artista, si chiama Christou, dal quale probabilmente avete qualche volta sentito parlare. Christou è quello che qualche anno fa sul lago d'Iseo fece una installazione di una passerella di circa 4 km, passerella arancione, che probabilmente molti di voi hanno avuto anche occasione di visitare. Si chiamava The Floating Piers. Christou però nel mondo dell'arte è noto soprattutto per altre opere, gli impacchettamenti. Christou cominciò impacchettando oggetti come scope, poltrone, biciclette e poi cominciò a impacchettare monumenti, anche a Milano, dove nel 1970 impacchettò la statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo e il monumento Leonardo da Vinci in Piazza della Scala. A Roma invece impacchettò la Porta Pinciana e impacchettò monumenti in tutto il mondo. Perché a Christou piaceva impacchettare? Non perché fosse un nostalgico di Babbo Natale che a dicembre arriva con le renne e appunto con i suoi regali impacchettati. No, Christou impacchettava oggetti e monumenti perché era convinto che impacchettando noi paradossalmente potessimo vedere meglio quello che a quel punto ci era nascosto. Quando noi a Milano passiamo davanti alla statua di Vittorio Emanuele II ci siamo abituati, non ci facciamo caso, la diamo per scontata, come il marito o la moglie dopo tanti anni di matrimonio. Ma se a un certo punto dove normalmente c'era la statua vediamo tutto impacchettato, ci chiediamo cosa c'è lì sotto, ti ricordi com'era? E quindi stranamente nascondere ci permette di vedere meglio e anche di apprezzare di più, come nel matrimonio, lo dico anche alle signore in ascolto, probabilmente se doveste impacchettare vostro marito comincereste ad avere un po' di nostalgia e ad apprezzarlo di più. Così quella di Christou era un'operazione forse concettuale ma anche molto pratica, ci permette di vedere meglio quello che vedendo tutti i giorni ci eravamo abituati a non vedere più. La stessa cosa ha fatto con le nostre vite il coronavirus. Eravamo abituati a andare al bar tutte le mattine a prendere il caffè, eravamo abituati a stringere la mano ogni volta che conoscevamo qualcuno, eravamo abituati a mangiare allegramente in simpatiche cene a casa di amici o anche con meno soddisfazione del palato e dell'apparato gastrointestinale nelle tristi mense aziendali. Eravamo abituati a aspettare i nostri figli all'uscita da scuola ammassandoci uno accanto all'altro. Eravamo abituati a invitare a cena una donna conosciuta qualche giorno prima cercando

della capanna.